c'è che annovi il più lucco che c'è, sia al primo violino alla corte del re. Allora Ninetto, che lucco non è, si mette a cercare un violino per sé. Lo cerca ai mercati, lo cerca alle fiere, lo cerca tra i ninnoli d'un brigattiere, lo cerca per ore, per giornate intere, marchetti e violini, rimango chimere. E Ninetto si dice, son proprio un cretino, a Novi perfino il più lucco un violino. Son vittima forse di questo destino, soltanto perché sono nato a Bellino. Suona, ti lascia di stucco. Ah, ah, degli altri non posso elencare la scienza, che questa canzone non dura abbastanza. Dirò solamente che a Novi la gente, su questa collina del basso Piemonte, produce campioni, si gusta il buon vino, e quello più stupido suona il violino. Vino, e quello più stupido suona il violino.